Amen. Grazie, pastore. Buonasera, chiesa. Come state? Siete proprio belli. Anzi, bellissimi. Esattamente. Siete felici di essere qui? Io sono... qua mi esce love document. No. Ok. Io sono estremamente felice di essere qui. Sono proprio contenta, perché in realtà non c'è posto migliore la domenica sera se non proprio questo. Non c'è cosa migliore che tu e io possiamo fare se non spendere questo tempo insieme alla nostra famiglia. Oh no, siete d'accordo? Non c'è cosa migliore della Chiesa di Cristo. Non c'è cosa più bella. La Chiesa di Cristo certamente è imperfetta. È vero? Lo ammettete? Bravissimi! Certamente è imperfetta, chiaramente ci sono delle cose che vanno molto bene, ci sono delle cose che vanno un po' meno bene, e se mai fosse stata perfetta questa chiesa, allora è diventata imperfetta nel momento in cui ci ho messo piede io. Quindi scusatemi, forse la colpa è tutta mia, ma ho il sentore che sono in buona compagnia, o no? Siamo una famiglia imperfetta, ma ci vogliamo bene. Siamo una chiesa imperfetta, ma Gesù, il Figlio di Dio, ci ha scelto, ci ha messo insieme e ha tanto amato la sua chiesa che sulla parola di Dio c'è scritto che Gesù ha dato se stesso per essa. Gesù ha dato se stesso perché amava la Chiesa da morire, nel vero senso della parola. Perché? Per purificarla, per santificarla, per far sì che noi, insieme di persone così così, potessimo diventare santi, potessimo vivere una vita santa, potessimo essere purificati, potessimo essere resi perfetti agli occhi di nostro Padre. Non è fantastico questo? Non siete ancora più felici adesso di stare qui? Io sì, io sono terribilmente felice. E oggi vogliamo continuare a permettere a Dio di modellarci, di plasmarci, di renderci ancora un tantino più simili a Lui attraverso lo studio della sua parola, attraverso la Bibbia. La Bibbia è un dono meraviglioso. Se tu sei qui per la prima volta, ti voglio dare anch'io il benvenuto, e non hai una Bibbia, vieni da me dopo il culto, perché dopo l'incontro, perché te ne voglio regalare una, perché hai bisogno di una Bibbia, hai bisogno della parola di Dio. Noi tutti abbiamo bisogno di cibarci, ce lo ricordiamo? Di cibarci, di mangiare quel pane che è la parola di Dio, e oggi lo faremo. E oggi lo faremo e leggeremo insieme una storia che è molto molto conosciuta. Anch'io ho già parlato di questa storia, ma il Signore proprio me l'ha detto chiaro e tondo che dovevo ritornarci su questa stessa storia e parlarne un po' di più, perché ha un messaggio particolare per ognuno di noi. Sai, io ho pregato per te durante questa settimana. Ho pregato per te che sei qui per la prima volta. C'è qualcuno per la prima volta qui? Ah, benvenuta, benvenuta signora. Ho pregato per te, signora. Ho pregato che Dio possa parlare al suo cuore. Ho pregato che oggi lei possa avere una rivelazione speciale di quello che la parola di Dio ci insegna. E ho pregato anche per tutti quanti voi, affinché tutti quanti possiamo uscire da questo posto diversi da come siamo entrati, perché questo, esattamente questo, è quello che succede quando apriamo questo libro, quando apriamo la parola di Dio e ci specchiamo in essa e ci cibiamo di essa. Tutto cambia, non può rimanere uguale. E quindi vogliamo leggere dal Vangelo di Luca al capitolo 18. Sono 8 versi, molto molto conosciuti, e li leggiamo insieme questa sera come famiglia imperfetta che vuole diventare più simile a Gesù. Amen? Lo potete leggere insieme a me sullo schermo? E dice così, Luca 18, 1-8, per chi sta prendendo appunti. Quel Gesù che parla, propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. È interessante come Gesù ce l'ha già detto questa sera. Pregate sempre, non cessate di pregare. E Gesù attraverso questa parabola non voleva far altro che ricordare ai suoi interlocutori di pregare sempre, senza stancarsi. E la parabola dice così. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua ad importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo ad insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Questa è la bella notizia di stasera. Tutte le preghiere che abbiamo rivolto a lui sono state udite. E la parola di Dio ci insegna che Gesù, che Dio ci renderà giustizia con prontezza. Amen, Chiesa? Siamo contenti? Crediamo in questo? Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Questa è la parabola. E l'obiettivo che ha spinto Gesù nell'insegnare in questi termini era quello di insegnare, di trasmettere ai suoi discepoli e alla folla che c'era lì di continuare a pregare senza stancarsi. Sapete, noi al consolidamento, che è un corso di 8 settimane, che ha l'obiettivo di spiegare un po' tutte le fondamenta della fede cristiana, della fede cristiana, no? Quindi si studia il peccato, la salvezza, la Bibbia, la preghiera. Abbiamo studiato che cos'è la preghiera, giusto? Chi è che frequenta il consolidamento? Adesso nessuno alzerà la mano. E quindi adesso io mi trovo in una posizione piuttosto interessante, o no, Alessandra? Abbiamo studiato, abbiamo visto che cosa la parola di Dio ci insegna sulla preghiera. Che cos'è la preghiera, Alessandra? A parole tue. Senza microfono. Esatto, la preghiera è promossa. La preghiera è un modo per aprire il nostro cuore a Dio, per esprimergli tutto quello che noi abbiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, per condividere con Lui, per includerlo, per coinvolgerlo in tutto quello che fa parte della nostra quotidianità. Pregare significa parlare con Dio, semplicemente, né di più e né di meno. Vuol dire parlare con Dio, ringraziarlo per tutto quello che Lui ci dà, per chi Lui è, per la salvezza che ha guadagnato per noi e ci ha donato per grazia, ma anche per presentargli i nostri bisogni, le nostre debolezze, per coinvolgerlo nelle nostre difficoltà, per vivere con Lui le nostre battaglie, per poi gioire insieme quando vinciamo quelle battaglie. Questo è la preghiera. Questo significa pregare, parlare con parole proprie con Dio, aprire il proprio cuore a Dio. Tutti quanti sanno che cos'è la preghiera, giusto? Tutti quanti nella vostra vita avete almeno una decina di volte ascoltato un messaggio sulla preghiera, giusto? È vero? Quindi potenzialmente io non vi dirò niente di nuovo questa sera, ma Dio, io lo credo fortemente, sta chiamando di nuovo la sua Chiesa sulle ginocchia. sta dicendo: ehi chiesa, ehi sposa mia, io ti amo tanto. Sei bella, sei brava, stai crescendo, sono orgoglioso di te, ma devi parlare un po' di più con me. Voglio essere un po' più intimo con te. Voglio che mi coinvolgi di più nella tua vita. Questo, di questo parleremo oggi. E sempre al consolidamento c'è stata una, come dire, è successa una cosa piuttosto simpatica, giusto? È vero, Dina? È simpatica, la posso dire? Grazie, grazie mille. Ognuno di noi stava condividendo un po' come si viveva, come stiamo vivendo un po' la nostra vita di preghiera. E quindi c'è chi diceva: io sto pregando per questo, sto coinvolgendo Dio in questo aspetto della mia vita. E Dina, proprio quella volta, ha condiviso il fatto che stava pregando per suo figlio, che proprio oggi ci ha detto ha trovato lavoro. E quindi la risposta a quella preghiera è arrivata. Dio ha reso giustizia prontamente. Però poi ad un certo punto mi fa: però Noemi, io sì prego, però io è come a te che voglio pregare. Ah, uguale. No, abbiamo cambiato idea, non è così. Hai detto: ma Dina, ma perché vuoi pregare come me? Che cosa c'è di così attraente nel mio modo di pregare? E lei mi fa: no, no, Noemi, perché tu quando preghi ti arrabbi. Okay. Ho detto: mi arrabbio? Ma Dina, forse sì, alzerò un po' la voce. Non so, sono abbastanza intensa. No, no, no, Noemi, tu ti arrabbi proprio. E io voglio pregare come te. Ho detto: ma Dina, ognuno c'è il proprio modo di pregare. Io sono così e il Signore è contento così. Mi ha creato in questo modo. Però se tutti si arrabbiassero come me in preghiera, gli faremmo vedere un gran mal di testa a questo nostro Gesù, poverino. Questo è un episodio simpatico, però nasconde una certa attitudine, un certo modo di pensare della preghiera. Tutti quanti noi sappiamo che pregare è facile, che pregare è per tutti, che tutti sanno pregare, però dentro di noi c'è sempre quel pensiero: ma il Signore mi sa che ascolta di più lei che me. Ci sono preghiere di serie A e preghiere di serie B. Ci sono preghiere che il Signore ascolta davvero con prontezza. Ci sono preghiere che sono 10 anni e il Signore ancora mi deve rispondere. Quindi c'è qualcosa che non va. C'è questo modo di pensare, no? Forse non espresso, però dentro di noi una volta ogni tanto la facciamo questo pensiero. Quanto vorrei pregare come il pastore Mirko, quanto vorrei pregare come i ministri che hanno tutte quelle parole, che si arrabbiano, che gridano. E Gesù dice: ehi, tu puoi pregare come ti pare e piace, puoi gridare, puoi dirlo in silenzio, puoi arrabbiarti, puoi stare tranquilla, basta che preghi sempre senza stancarti. Voglio vedere con voi un piccolo video che ho trovato abbastanza simpatico, questa è la parola della serata, è in inglese, però si spiega da solo, vi spiego un po' il contesto. Praticamente questo video presenta una riunione tipo di un gruppo familiare, no? Allora c'è il capogruppo che dice: ok, allora riuniamoci e preghiamo. E quindi il gruppo si riunisce, si siede in cerchio e dovrebbe cominciare a pregare. Però poi vedete che cosa succede. Hey guys, it's time. I'm going to get started. Before we get going, I thought we would open up in prayer and kind of go around the room. Steve, would you mind starting? I don't want to jinx it. Okay. Yes, G. My roommate from college has a job interview tomorrow. Okay. And this guy's granduncle is sick. of his cat's wheezing. It we needs, can pray for that. Needs some sort of surgery. Or anyway, his granduncle is trying to sell his Camaro to pay for it. Yeah, we can pray for that. Whoever feels led can start it off. Why don't we go ahead? My shoe. Dear Lord, you go ahead. Oh, okay. No, you go. Okay, I'll go. Dear Lord, we pray for the Camaro. No, you go. Bazooka. How's this happening? Bazooka Joe likes bubblegum. Bazooka Joe likes bubblegum. It's chili. we pray for the cat. Amen. All right, everybody. We're making some progress. Che non è successo? Cioè succede spesso, no? Che, ok, preghiamo insieme, poi c'è quel silenzio che non finisce mai. E tu incominci a pensare, ok, allora, adesso incomincio io. E tu nella tua mente, incominci a pregare nella tua mente per prepararti come devi esprimerti al meglio, no? Allora dico questo, però no, mi vergogno, vabbè, qualcun altro lo farà, aspettiamo e nessuno lo fa, e intanto il capocellula, ve lo posso assicurare, sta morendo perché è troppo imbarazzante. Succede o no? A quanti è successo? Bugiardi, a tutti è successo, bugiardi. Pregare è semplice, è accessibile. Pregare vuol dire parlare con Gesù. Eppure è interessante, come qualcosa di così naturale, come qualcosa di così semplice, diventa così complessa, diventa così imbarazzante alle volte. Non sto parlando solo della preghiera che magari possiamo o abbiamo la possibilità di fare davanti a delle sorelle, a dei fratelli, davanti a comunque delle persone, ma molte volte, anche quando siamo da soli, con Gesù, ci fermiamo e non sappiamo cosa dire, e abbiamo quasi un blocco, e quell'intimità di cui così tanto parliamo, non riusciamo a trovarla. O ancora peggio, alcune volte, nonostante vogliamo trovare del tempo, vogliamo trovare modo di rivolgerci, di parlare con Gesù, di coinvolgere Dio nella nostra giornata, tutto ad un tratto dalle 8 di mattina arrivano le 8 di sera e quella giornata è volata via e non abbiamo avuto modo di rivolgerci al nostro Creatore, di rivolgerci al nostro Padre. Una cosa così semplice, così naturale, la facciamo diventare così complessa. Perché? E da quanto abbiamo letto, in realtà anche qui siamo in buona compagnia. Perché se Gesù ha dovuto raccontare questa parabola per ricordare di pregare sempre, senza stancarsi, probabilmente la situazione all'epoca non era così tanto differente da quella che magari viviamo noi nella nostra vita. Per questo vogliamo imparare. Vogliamo imparare dalle parole di Gesù a cambiare questo nostro atteggiamento verso la preghiera, a vivere una vita di preghiera come Dio vuole, come Dio ha pensato che la Chiesa debba vivere. E da questa storia io ho imparato, e questo lo voglio dire molto sinceramente, la prima ad ascoltare questo messaggio sono io. Quindi io sono la prima a dover imparare oggi a pregare, perché so che la mia intimità con Gesù potrebbe molto più crescere, deve molto più crescere, potrebbe essere molto più di qualità. Quindi alla fine noi avremo da fare una scelta, io vi posso assicurare che in prima fila a fare questa scelta sono io. Quindi io ho imparato tre principi da questa storia. Ed è una storia che vede una vedova disperata che approccia un re abbastanza ingiusto, un re che non gliene importava niente, né di Dio né delle persone, era molto preso da se stesso e lo ammette, era consapevole di questo. Ma la vedova va con perseveranza, va senza stancarsi e chiede a questo giudice: ti prego, rendimi giustizia, ti prego, aiutami. Si mette proprio alla centralina, come diciamo noi a Bari, un po' come faccio io con mio padre quando voglio che cambi canale, perché è un'ingiustizia vedere 4 telegiornali uno dopo l'altro, papà, e quindi mi metto e chiedo: cambia canale, e papà alla fine, per non sentirmi più, lo cambia, dopo il terzo comunque telegiornale, quindi voglio dire, non è così tanto di successo la mia persuasione. Ma questo era il cuore della vedova: ti prego, con perseveranza, con insistenza, non si stancava, andava davanti al giudice giorno dopo giorno, giorno e notte, chiedendogli di farle giustizia, e il giudice alla fine gliela rende. È il primo principio che noi possiamo imparare da questa storia, è che la nostra vita di preghiera è sintomatica della nostra dipendenza da Dio. Cioè, in parole un po' più semplici, quanto preghiamo esprime, ci dice quanto veramente siamo dipendenti da Dio, quanto davvero Dio è al centro delle nostre vite, quanto quello che predichiamo in realtà è rispecchiato dalle nostre azioni, dal nostro stile di vita, da quanto tempo, da quante energie, da quanta intensità ci mettiamo nella nostra intimità con Dio. Come vi ho detto, uno dei due personaggi è una vedova. Una vedova a quel tempo non aveva assolutamente niente. Era nel bisogno più totale. Non aveva nessuno che poteva aiutarla, che poteva combattere per lei, che poteva sostenerla. Era da sola, era in grave bisogno d'aiuto. E sapete, la risposta del giudice per questa vedova era l'unica soluzione per la sua intera vita. Il fatto che il giudice potesse dirle: ok, ti rendo giustizia, ok, risolvo il tuo problema, significava probabilmente vita o morte per questa vedova. È per questo che la vedova così insistentemente, così senza stancarsi, andava davanti al giudice per pregarlo, per chiedere il suo aiuto. E io ho dovuto pensare che molto spesso il nostro atteggiamento nella preghiera è così poco prioritario, perché piuttosto di sentirci come quella vedova, ci sentiamo come il giudice, ci sentiamo come dei re. La vedova qui rappresenta ognuno di noi. La vedova qui sei tu e sono io. Però nella nostra relazione con Dio, molto spesso l'errore che noi facciamo è che piuttosto che sentirci delle vedove, sentirci in grave bisogno di Dio, in urgente bisogno del suo intervento nella nostra vita, ci sentiamo dei giudici, ci sentiamo dei re capaci, ci sentiamo delle persone che stanno bene, che ce la possono fare da soli. E forse è anche vero, forse è vero che ce la puoi fare da solo. Se solo non... Tu puoi pensare di farcela da solo, solo quando, scusate, la ripetizione di parole, solo quando non sei consapevole di quanto Gesù può fare nella tua vita e attraverso la tua vita. Siamo così bravi, siamo diventati così bravi a crescere i nostri figli, a vivere il nostro matrimonio, a lavorare. Siamo diventati così bravi a studiare, ad andare a scuola. Siamo diventati così bravi, è così semplice vivere le nostre amicizie, che abbiamo incominciato a farlo da solo, a farlo da soli, dimenticandoci che per crescere dei figli secondo la volontà di Dio abbiamo bisogno dell'intervento di Dio, che per vivere un matrimonio secondo i criteri di Dio abbiamo bisogno di coinvolgere Dio nel nostro matrimonio, che per essere luce e sale nel nostro posto di lavoro abbiamo bisogno di ricaricarci della grazia di Dio, abbiamo bisogno di ricaricarci della parola di Dio per poter andare lì e poter predicare la sua verità. Ci siamo dimenticati che è in classe, che è a scuola, durante le assemblee di classe, durante le assemblee di istituto, non siamo lì solo per perdere tempo, ma siamo lì perché abbiamo la possibilità di essere testimoni, siamo lì perché abbiamo la possibilità di testimoniare di quanto Dio è grande, di quanto Dio ha dato un senso alla nostra vita, di quanto Dio ha cambiato la nostra vita. Noi siamo lì con uno scopo divino, siamo lì con uno scopo diverso, e così a scuola, così al lavoro, così nella famiglia, così tra gli amici, così al mercato, così dovunque. Però siamo diventati così bravi, siamo diventati così bravi a vivere una vita ordinaria, dimenticandoci che siamo qui su questa terra per continuare l'opera che Gesù ha incominciato, e per fare questo abbiamo bisogno di essere intimi con Dio, abbiamo bisogno di essere disperati come quella vedova, di chiedere aiuto a Dio, di chiedere nuove rivelazioni, di chiedere una nuova rivelazione del suo amore, una nuova rivelazione della sua grazia, una nuova forza per perdonare, una nuova forza per testimoniare, per parlare. È solo da Lui che la possiamo ricevere. Ma siamo diventati così bravi. Invece siamo delle vedove, che ti piaccia o no, sei una vedova, sei in disperato bisogno dell'intervento di Dio nella tua vita, che tu conosca Dio da 100 anni o che tu stia conoscendo Dio in questo momento. Sei nello stesso bisogno. Noi siamo deboli, Chiesa. Noi siamo deboli, non ci vuole niente che sbagliamo, non ci vuole niente che pecchiamo, non ci vuole niente che facciamo questo pensiero che neanche sappiamo come ci è venuto in mente, non ci vuole niente che tradiamo, che diciamo una bugia, che... E tu puoi mettere quello che c'è nella tua vita, non ci vuole niente. Ecco perché è così importante rimanere attaccati, rimanere ancorati a Gesù. E questo si può fare attraverso la preghiera. Questo si può fare sulle ginocchia, dicendo: Gesù, io ho bisogno di te. Gesù, c'è questa situazione che non riesco proprio a risolvere, ti prego aiutami. C'è questa relazione che non riesco proprio a gestire, ti prego aiutami. C'è questo peccato che non riesco a superare, che non riesco a vincere, ti prego salvami. Perché tra parentesi, quel peccato non riuscirai a vincerlo da solo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro dei principati e delle podestà, che possiamo vincere solo ed esclusivamente attraverso la preghiera. Amen, Chiesa? Sì? Siamo delle vedove. Siamo delle vedove che dobbiamo andare continuamente, senza stancarci, davanti a Dio. Anche per chiedere la stessa cosa. Ma perché? Perché Dio è sordo. Non ve lo siete mai chiesto? Io me lo so che sono un sacco di volte. Ma perché, Gesù, ti devo dire sempre la stessa cosa? Ma te l'ho detta già 3000 volte! ti scordi che cosa succede, perché te lo devo ripetere? Questo fatto delle suppliche, io non ho mai capito bene bene. Ma in realtà, ora sì, l'ho capito e lo voglio condividere con voi. Pregare, il fatto che noi preghiamo, non serve a Dio, serve a noi. Dio già lo sa quello che tu gli stai per dire. Dio conosce ogni singolo pensiero del tuo cuore. Dio sa quello che stai per esprimere dalla tua bocca. Dio lo sa, non gli serve sentirlo neanche per la prima volta, eppure lo vuole sentire tutte quelle 100 volte. Perché? Perché serve a te. Serve a te ricordarti che la situazione non è solo sopra le tue spalle. Serve a te ricordarti che Lui è Dio e non sei tu. Serve a te umiliarti e dire: Dio, io non sono capace, ti prego fallo tu, perché tu sei sovrano, perché tu sei capace e perché tu hai già vinto per me. Serve a noi. Serve a noi Chiesa continuare a pregare senza stancarci. Sì? Amen? A me, siamo delle vedove. Io ho la sensazione che non riuscirò a finire in tempo, neanche questa volta, però va bene, proviamoci almeno. Il secondo principio è questo. Dio qui è paragonato ad un giudice ingiusto. Cioè, se noi siamo la vedova, l'altra parte che concede, no? Il favore, la giustizia, la vedova dovrebbe essere Dio. Però in questa storia Dio è un giudice iniquo, è una persona che ha appena detto: a me non me ne frega niente, non mi importa niente, né di Dio né delle persone, sono un uomo che pensa solo a se stesso. E ci fa storcere un po' il naso, cioè, ma com'è? C'è qualcosa che non va, perché il Dio che conosco io è un Dio buono, è un Dio di grazia, è un Dio misericordioso, ed è così, Chiesa, è proprio così. Infatti quello che dobbiamo capire è che Gesù ha detto: sentite le parole del giudice, che alla fine, nonostante fosse così malvagio, le era fatto il favore alla vedova. Quanto di più Dio che ti ha creato, Gesù, che è morto e poi è risorto affinché tu possa avere una vita abbondante, affinché tu possa avere la vita eterna, affinché tu possa vivere con un destino eterno e divino, quanto più Gesù non renderà giustizia ai suoi figli. Qua dovrebbe scattare tipo: amen, sono contenta, che bello che Gesù mi ama, che bello che Gesù è così buono con me, che bello che Gesù ascolta le mie preghiere, che bello che Gesù non è quel giudice iniquo, grazie pastore, che nonostante fosse così cattivo è intervenuto nella vita della vedova. Quanto più Gesù non lo farà con te, non lo farà con il tuo bisogno. Quanto più Gesù non sarà onorato dal tuo ringraziamento, quanto più Gesù non sarà disposto ad essere coinvolto nella tua vita, nelle vittorie e nelle battaglie, quanto più Gesù. Il problema è che molto spesso noi crediamo che Gesù, il nostro Dio, sia esattamente come quel giudice. Come quel giudice che non gli importava niente della vedova. Ed è questo che spesso ci porta a non pregare. O a pregare una o due volte e poi basta. Se non mi ascolta, basta. Sono stufa. Questa sono io. Sto dicendo a voi. Noi crediamo che Gesù sia come proprio quel giudice. E ci scordiamo che Gesù invece, che Dio è amore. Spesso non preghiamo perché non crediamo che Dio ci voglia ascoltare davvero. E ci sono delle aree della nostra vita nelle quali non ci vogliamo rendere vulnerabili neanche davanti a Dio. Quindi delle quali non parliamo neanche con Dio. O perché l'abbiamo fatto e non c'è stata risposta e quindi siamo rimasti delusi, oppure perché siamo troppo orgogliosi per aprire sinceramente il nostro cuore a Dio. Dio non è quel giudice. Dio è amore. Dio ti ama. Gesù è morto ed è risorto affinché tu potessi avere proprio questa relazione della quale stiamo parlando. Gesù è morto ed è risorto affinché tu potessi aprire la tua boccuccia e pregare. Aprire il tuo cuore ed essere sincero con Dio. Essere te stesso. Non nascondere i tuoi peccati. Confessali. E io nella preparazione sentivo, Chiesa, che c'è qualcuno in mezzo a noi che ha un'area della sua vita della quale non ha mai parlato con Dio. Non ha neanche parlato con suo marito o sua moglie. E io ti voglio dire che Dio vuole entrare in quell'area, che Dio vuole guarire, che Dio è pronto ad ascoltarti e Lui ti darà la forza di dirlo anche al tuo coniuge. Perché io non lo so, ma i miei mi insegnano che ci dovrebbe essere libertà nel matrimonio. Dio sta lavorando, Dio ci sta ricordando quali sono le cose importanti e Dio ti vuole ascoltare, ti vuole ascoltare, ti ama, vuole intervenire nella tua vita, in tutte le aree. Non essere orgoglioso, non essere orgoglioso. Spesso non preghiamo perché pensiamo che Dio non ci risponderà, perché ci abbiamo provato e non l'ha fatto. Riprovaci. I tempi di Dio sono quelli perfetti. E probabilmente la sua non risposta è una risposta. Sturati le orecchie. Non essere ottuso. Sii sincero con Dio. Sii sincero. Prega. Prendi del tempo. Prendi del tempo di qualità, sii intimo con il tuo Dio. Lui vuole ascoltarti. Apri il tuo cuore. E la risposta è chiara. Non renderà dunque giustizia a Dio e ai suoi eletti, che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia, e giustizia con prontezza. Sì? La terza cosa che io imparo da questa storia, ve la dirò in questi 12 secondi che mi rimangono, è che una vera chiesa è un gruppo di eletti che pregano. Qua lo dice la Bibbia, eh? Non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte? Tarderà nei loro confronti? No, renderà loro giustizia con prontezza. Gli eletti, e io amo questa parte, gli eletti, gli scelti, quelli che hanno vinto, non sono, cioè per Dio non sono quelli bravi, non sono quelli con tante capacità, quelli che pregano, quelli che suonano, quelli che guidano un gruppo, quelli che hanno un compito, una carica, un'etichetta, un titolo in chiesa. No, no, gli eletti di Dio sono coloro che pregano giorno e notte. Sono coloro che spendono il loro tempo sulle ginocchia, coinvolgendo Dio in ogni area della loro vita. Sono coloro che pregano per la salvezza di chi ancora non conosce Gesù. Sono coloro che pregano per la crescita della Chiesa. Sono coloro che pregano per una famiglia santa, per un matrimonio che funziona, per una vita che sia di benedizione e non egoista. Sono coloro che giorno e notte pregano, che sono alla presenza di Dio, che guidano e pregano, che lavano i piatti e pregano, che accompagnano i bambini a scuola e pregano. Sono coloro che studiano e pregano. Sono coloro che stanno scrivendo una tesi e pregano. Sono coloro che pregano giorno e notte. Questi sono gli eletti di Dio. Questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa, non una serie di eventi. Non una serie di eventi. Siamo bravi, siamo diventati bravi, ma Gesù ci sta di nuovo mettendo davanti le cose più importanti, la priorità, Noi lo stiamo vivendo nella squadra pastorale. Siamo ritornati, non che abbiamo mai smesso, però stiamo pregando con più intensità, con la consapevolezza più profonda che senza di Gesù noi non possiamo fare niente. E questo c'è scritto in Giovanni 15, che senza Gesù noi possiamo chiudere baracca. Perché se Gesù non viene qui, se Gesù non è in mezzo a noi, se non coinvolgiamo Gesù in quello che facciamo come chiesa, allora stiamo facendo il club, e il club possiamo farlo da qualunque altra parte. La chiesa che Gesù desidera è una chiesa che prega, è una chiesa che non si fa distrarre dalle cose futili, dalle liti. Basta con queste liti, ma che perdita di tempo, basta con questo gossip, basta, è una perdita di tempo. La chiesa che vuole Gesù non si fa distrarre da queste cose, perché è troppo impegnata a pregare, perché è troppo impegnata a coinvolgere Gesù nella propria vita. La chiesa che vuole Gesù è composta da mariti che non hanno modo di pensare ad altre donne, che non hanno modo di tradire, che non hanno modo di rubare, perché sono troppo innamorati di Gesù e perché spendono tutto il loro tempo pregando. E quando tu preghi, Gesù ti trasforma. E come fai a tradire tua moglie? È fatta di mogli che non hanno tempo di alimentare vizi, di perdere tempo, di pensare alle cose futili, di essere troppo oppressive con i figli, perché pregano. Perché il loro tempo lo investono in una maniera migliore. È fatta di ragazze, di ragazzi, che non fondano, non basano la loro identità su quanti mi piace a voi, su quanti mi piace o su Facebook, o ne avete solo 5, sono terribile. Ma pregano. Pregano e sanno che sono stata fatta in un modo meraviglioso, anche con quei 5 mi piace, chi se ne frega. Questa è la chiesa che Gesù vuole. Tu vuoi essere questa chiesa? Tu vuoi essere questa chiesa? Pure io. Come si traduce questo? Si traduce che al prossimo incontro di preghiera dobbiamo essere così numerosi. Scusate se sono così diretta, però sto andando bene. Al prossimo incontro di preghiera dobbiamo essere così numerosi, perché è a pregare che Dio ci sta chiamando, perché è nella preghiera che i miracoli si facilitano, perché è attraverso la preghiera che si sconfiggono e si rompono le catene, le prigionie. È nella preghiera, è attraverso la preghiera. A me piace, io lo so che domani mattina devo pregare piuttosto che dormire quell'ora di più. Oh, quanto mi piace il mio cuscino. Devo pregare, perché altrimenti sarei un'ipocrita qui davanti a voi a dirvi qualcosa che io ancora non faccio al meglio. E quindi chiesa, io voglio fare un invito oggi. Alziamoci in piedi. Possiamo chiudere i nostri occhi, chinare il nostro capo, metterci davanti a Gesù. E noi canteremo un canto, il nuovo canto, che dice: risvegliaci, risvegliami Signore, risvegliami. Oh, questa mia vita di preghiera è diventata un po' apatica, è diventata un po' passiva, è diventata un po' povera. Per piacere risvegliami, fammi venire di nuovo quella passione che avevo di parlare con te, fammi venire di nuovo quell'urgenza, dammi la consapevolezza di essere una vedova, dammi la consapevolezza di avere bisogno, è un bisogno urgente del tuo intervento nella mia vita. E io voglio chiederti se tu sai che forse per ultimamente o da un po' di tempo ti sei comportato come un giudice piuttosto che come una vedova, alza la tua mano, perché io voglio pregare per te. Grazie. Se tu sai che hai smesso di pregare perché sei stato deluso, perché una volta Gesù non ti ha risposto, e quindi allora ti sei convinto che Gesù non ascolta le tue preghiere e hai smesso, e quell'intimità si è rotta, quell'intimità si è raffreddata, e vuoi che questa situazione cambi? Alza la tua mano, perché io voglio pregare per te. Tante mani si stanno alzando in piedi. Si stanno alzando. Se tu vuoi essere una chiesa santa, senza macchia, pura, pronta per quando Gesù tornerà, e sai che devi pregare di più per questo, sai che stai perdendo troppo tempo, vuoi pregare di più, vuoi che Dio ti risvegli, vuoi che Dio ti appassioni di più, alza la tua mano. Alza la tua mano, chiesa, alza tutte e due le mani e incomincia a pregare adesso. Comincia ad alzare la tua voce e incomincia a pregare adesso, a confessare, a chiedere perdono, a chiedere che Gesù ti appassioni di più a Lui stesso, a chiedere la forza, la determinazione per vivere una vita di preghiera vera, una vita di preghiera passionale, una vita di preghiera radicale. Cavallo, chiesa, vi devo sentire. Preghiamo, preghiamo con passione. Alziamo la nostra voce, confessiamo, chiediamo a Gesù il suo intervento.